more is day. Tutto ok. Dall'anno zero al buco nero. Torte di mele d'avanzare, lune di miele a consumare, tempo di ricordare e cancellare, la storia è un soffio al cuore nella memoria. Noi, nell'ordine che verrà poi.